Napolitano si corregga il costume politico, inaccettabili gli attacchi ai PM. Buona reazione dei mercati all'accordo per la Grecia, passo importante secondo l'agenzia di rating Fitch. Nuove accuse per Filippo Penati, parla anche un altro imprenditore. Tour de France, oggi altra tappa di montagna, Formula 1 nelle libere, Alonso domina. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione. Oggi nella cerimonia del ventaglio, tradizionale momento di saluto alla stampa del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano ha toccato tutti i temi di più stretta attualità. Vincenzo Miglietta era al Quirinale. Vincenzo. Sì, buongiorno. Ricorda ruolo e prerogative del Quirinale, auspica che la coesione nazionale manifestata con l'approvazione della recente manovra economica possa avere un seguito. Interviene il Presidente della Repubblica al tradizionale appuntamento con la stampa parlamentare prima della pausa estiva. Napolitano respinge subito quelle che definisce interpretazioni dietrologiche circa il suo operato. Una risposta, quella del Capo dello Stato, a chi ha visto nei suoi auspici per la coesione nazionale una regia politica, una forma di commissariamento del governo. Quanto alla crisi internazionale, l'Italia, spiega Napolitano, ha fornito una prova che si doveva dare, ci si è mossi nella direzione a cui tutti guardavano. Il capitolo costi della politica, quindi, auspico da tempo, spiega il Presidente della Repubblica, decisioni di alleggerimento e semplificazione dell'architettura istituzionale, oltre che tangibili correzioni sul piano del costume politico. Poi la giustizia, i magistrati devono essere inappuntabili, ribadisce il Capo dello Stato, in modo da vanificare attacchi inammissibili alla magistratura, disinnescando così un fuorviante conflitto con la politica. I casi Papa e Tedesco, è stato chiesto infine a Napolitano, rispetto sempre le decisioni del Parlamento, la risposta del Presidente della Repubblica, e dal Quirinale è tutto. Grazie dunque a Vincenzo Miglietta. E a proposito della situazione politica, oggi c'è stato il Consiglio dei Ministri, ci colleghiamo in diretta con Andrea Viali. Consiglio dei Ministri terminato da poco, Andrea, no? Sì, Simone, Consiglio dei Ministri nel quale non c'è stato l'atteso faccia a faccia chiarificatore fra Berlusconi e Bossi, Bossi che ieri ha subito una piccola operazione, ha anticipato questa operazione in realtà prevista per la prossima settimana e per questo motivo oggi non era presente a Palazzo Chigi. Nel corso del Consiglio dei Ministri il clima sarebbe stato comunque disteso nonostante le divisioni emerse tra il Popolo delle Libertà e la Lega, emerse negli ultimi giorni soprattutto per l'arresto del parlamentare del PDL Papa. Dalla riunione è arrivato anche un primo via libera con la formula salvo intese al disegno di legge costituzionale firmato proprio dai due ministri leghisti Bossi e Calderoli. Fra le novità previste da questo provvedimento sappiamo che c'è l'istituzione del Senato federale, ma c'è anche la riduzione del numero dei parlamentari. Ecco, per illustrarne i contenuti sono attesi in sala stampa qui a Palazzo Chigi a breve il ministro Calderoli e lo stesso premier Berlusconi, che probabilmente intende con questo appuntamento, con questa conferenza stampa, dare anche un'immagine, diciamo, di ritrovata coesione con il Carroccio. E secondo fonti di Palazzo Chigi, tra l'altro, nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri il premier avrebbe avuto anche un colloquio definito cordiale col ministro Maroni, che sappiamo esponente leghista, che sappiamo che più di tutti ha voluto il voto del suo partito a favore dell'arresto di Papa. Simone, per ora da Palazzo Chigi è tutto. Grazie dunque ad Andrea Viali. Veniamo all'altro argomento di queste ore, che è la firma ieri da parte dei leader europei dell'accordo per il salvataggio greco, che vale poco meno di 160 miliardi di euro, di cui un terzo dai privati e due terzi dal Fondo Salva Stati, accordo sul quale è arrivata poco fa la promozione dell'agenzia di rating Fitch. Nel frattempo festeggiano i mercati, anche quelli dei titoli di Stato. Deborah Rosciani. Sì, buongiorno, effettivamente così, anche se devo dire che nel corso dell'ultima ora le borse hanno leggermente raffreddato il loro entusiasmo. Sono comunque tuttavia positive, alcune piazze hanno superato il punto percentuale di guadagno, rafforzando sensibilmente, consolidando i rialzi degli ultimi due giorni. Adesso invece si rallenta un po' il passo. Parigi più 0,93%, Francoforte più 0,61%, Londra più 0,8%, Milano più 0,7%. Stanno recuperando abbondantemente terreno tutti i titoli del settore bancario, per la verità lo stanno recuperando da due giorni, e hanno ormai completamente cancellato il lunedì nero della borsa, che era seguito anche alla valutazione del mercato della manovra correttiva dei conti pubblici del nostro paese. La galassia Fiat sta andando bene, bene tutte le banche, dicevamo, con l'unica eccezione di Unicredit che perde un punto e mezzo, e molto galvanizzato anche il mercato valutario. contrario, l'euro sul dollaro ha riconquistato 1,44. Meno tensione dei giorni scorsi anche sui titoli di Stato, il differenziale di rendimento fra BTP e Bund, quindi fra il nostro titolo decennale e il paritetico tedesco, si è riportato al livello più basso dall'8 luglio, intorno a 225 punti base, con il tasso di rendimento del titolo italiano in calo al 5,19%. Simone, è tutto. E grazie Deborah Rosciani. Critico sull'accordo raggiunto dai leader europei l'economista Mario De Aglio, che insegna economia internazionale all'Università di Torino, intervenuto questa mattina a 9 in punto. Sentiamo. Hanno messo una pezza sulla ferita e sperano che la ferita guarisca da sola. Non hanno, diciamo così, messo in atto nessun meccanismo che possa prevenire altre crisi del futuro. Io credo che questo sia un piano inclinato in cui la situazione così non può durare. O si va verso una maggiore uniformità europea, che probabilmente passa per una tassazione europea e anche la devoluzione a un governo centrale europeo di alcuni compiti economici. Quindi sostanzialmente riduce gradualmente i vari paesi al livello a cui si trovano gli stati dell'Unione degli Stati Uniti. Quindi l'Italia diventa come il Massachusetts o l'Arizona o qualcosa del genere, quindi ci saranno delle imposte locali, ma poi c'è un'imposta nazionale. Oppure andremo verso una situazione in cui ci sarà un Euro 1, che sarà fatto dai tedeschi e da altri 6 o 7 paesi, e poi alcuni altri euro che fluttuano rispetto all'Euro 1 secondo limiti prestabiliti. La situazione attuale è instabile, quindi o si va avanti o si va indietro. Non esistono le condizioni minime perché l'Italia possa partecipare. Così il ministro degli esteri Franco Frattini annuncia che il nostro paese non sarà alle celebrazioni per il decennale di Durban, la conferenza in ambito ONU sul razzismo, in programma il 22 settembre. Frattini spiega che secondo l'Italia il forum è stato trasformato da momento di dibattito in una tribuna d'accusa contro Israele. La cronaca: 7 colpi di pistola calibro 7,65 sono stati sparati la notte scorsa contro l'auto del segretario regionale della Calabria della Will Trasporti, Giuseppe Rizzo. La vettura, una Opel Astra Station Wagon, era parcheggiata sotto casa del sindacalista a San Ferdinando, nella piana di Gioia Tauro. Rizzo sta seguendo, tra l'altro, l'avvertenza proprio del porto di Gioia Tauro. Nuove accuse per l'ex presidente della provincia di Milano, il PD Filippo Penati. Sull'area della ex Falck si abbatte il ciclone di Tangentopoli. L'inchiesta coinvolge Filippo Penati, che di Sesto San Giovanni è stato sindaco e uomo che ha gestito di fatto il più grande business relativo ad aree industriali dismesse d'Italia e forse tra le più grandi d'Europa. Ad accusare Filippo Penati di aver intascato tangenti ora ci sono due testimoni. C'è il costruttore Giuseppe Passini, che sostiene di aver pagato tangenti intorno all'equivalente di 8 miliardi di vecchie lire, dazioni di denaro per l'area ex Falck ed Ercole Marelli consegnati in Lussemburgo e Svizzera. C'è Piero Caterina, imprenditore, che oggi sostiene di aver pagato il Partito Democratico tramite Penati dalla seconda metà degli anni 90 fino al 2000 per cifre intorno ai 100 milioni di lire al mese. Secondo l'accusa, il denaro giungeva a Filippo Penati tramite il suo braccio destro Giordano Vimercati, diventato capo di gabinetto alla provincia di Milano, e tramite lo stesso Piero Caterina, rispettivamente in Svizzera e in Lussemburgo. Daniele Biacchessi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il presidente di Finmeccanica, Pier Francesco Guarguaglini, sarebbe indagato dalla Procura di Roma nell'ambito dei fondi neri di Finmeccanica con l'ipotesi di frode fiscale e false fatturazioni. È quanto riportano oggi i quotidiani Repubblica e Corriere della Sera. Secondo i quotidiani, l'iscrizione del presidente di Finmeccanica, confermato ai vertici della società lo scorso 4 aprile, risalirebbe ai primi mesi di quest'anno, con la notifica agli indagati della proroga di indagine concessa alla Procura dal GIP di Roma. 10 anni fa, esatti, moriva un grande del giornalismo italiano, Indro Montanelli. Quello che ci ripugna è che per mettere un controllo all'autorità politica ci sia bisogno di ricorrere all'autorità giudiziaria. Questo ci allarma anche perché, come avrete ben capito, la mia opinione dei politici è molto bassa, ma quella dei giudici non è migliore. Lo so che a dire queste cose si possono avere dei dispiaceri, ma io di dispiaceri in vita mia ne ho avuti tanti, che uno più o uno meno non mi fa nessunissimo effetto. Sta tutto qui Indro Montanelli, nel suo essere sempre in prima linea, controcorrente, tristemente attuale anche a 20 anni di distanza. Il principe del giornalismo italiano moriva 10 anni fa, aveva 92 anni. La mia vita professionale è la mia vita tout court, disse il giorno del suo 80° compleanno. Uomo schietto, di battuta, allergico ai luoghi comuni, fiero di dirsi senza padroni, Montanelli è stato una grande firma del Corriere della Sera. Nel 1974 fondò il giornale che diresse fino al 1994, l'anno dello strappo con il suo editore Silvio Berlusconi, che sceso in politica voleva fare del quotidiano uno strumento di propaganda. Con 40 giornalisti fuoriusciti con lui dal giornale, Montanelli fondò poi La Voce, che ebbe però vita breve. Fu anche autore di romanzi, saggi, opere teatrali, regie e sceneggiature cinematografiche. Una su tutte, Il generale della Rovere, Leone d'oro a Venezia. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A proposito di giornalismo, ma di tutt'altro tipo, la vicenda Murdoch. Secondo il premier David Cameron, dopo che due ex dirigenti di News of the World hanno contraddetto una parte della deposizione del figlio di Murdoch, James, martedì alla Camera dei Comuni, James Murdoch dovrà tornare in Parlamento a risponderne. Siamo allo sport, iniziando dal Tour de France. Che tappa ci aspetta oggi, Pier Augusto Stagi? Sì, oggi è la giornata delle montagne, è la giornata dei campioni. Tempo bellissimo, sole, cielo sereno, pubblico delle grandissime occasioni. Sono attese, pensate, sull'Alpe d'Huez più di 1 milione di spettatori. L'Alpe d'Huez è la montagna del ciclismo, è lo stadio naturale del mondo della bicicletta. Oggi Cadel Evans cercherà di contrastare i fratelli Schleck, Alberto Contador cercherà di difendersi anche se questa mattina ha lamentato il dolore ad entrambi le ginocchia. Ivan Basso e Damiano Cune, dei fratelli d'Italia che stanno cercando di onorare al meglio il Tour de France, che occupano da ieri sera la quinta posizione a pari merito, cercheranno anche loro di vivere una giornata di gloria nella tappa forse più bella, regina, di questo Tour de France, che domani vivrà il penultimo atto con la cronometro di Grenoble prima della passerella finale sui Campi Elisi di Parigi domenica. E grazie dunque a Pier Augusto Stagi. Vi ricordiamo che poi subito dopo il GR delle 19 andrà in onda come sempre il nostro appuntamento con Ivan Basso, che ogni giorno in esclusiva su Radio 24 racconta il suo tour. Passiamo alle quattro ruote. La Ferrari di Fernando Alonso mette in riga le Red Bull nelle prime prove libere del Gran Premio di Germania di Formula 1. Il pilota spagnolo ha ottenuto il miglior tempo girando in 1:31.894, piazzandosi davanti all'australiano Mark Webber 1:32.217, al tedesco Sebastian Vettel 1:32.268. In chiusura una notizia di cinema: Cristina Comencini con Quando la notte, Emanuele Crialese con Terraferma, un outsider, il fumettista Gianni Pacinotti in Arte Gipi con L'ultimo terrestre. Dovrebbe essere questo il terzetto italiano in concorso a Venezia, secondo le ultime indiscrezioni che danno anche come madrina l'attrice Vittoria Puccini. Per l'ufficialità bisognerà aspettare gli annunci appunto ufficiali di giovedì 28. Ed è tutto per questa edizione di GR24, condotta e curata da Simone Spezia con in regia Paolo Corleoni. Prossimo giornale radio alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.